Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Buonasera da Sebastiano Barisoni. E insomma, come ormai capita da intere settimane, se non mesi, il venerdì è il giorno delle volte della resa dei conti. Oggi il dato americano sul PIL, che è calato oltre ogni attesa, e ne parleremo in apertura, ha penalizzato moltissimo le borse. Devo dire, più le borse europee, che continuano a perdere oltre il doppio rispetto all'America: Francoforte -2,80, Parigi -2%, Londra 2,5%, Milano tra le peggiori, perde il 2,80 sull'S&P MIB e il 2,4 sul MIBTEL. L'America sta perdendo un punto percentuale e sullo Standard & Poor's 500 perde 1,5%. Certo che poi i livelli anche in America sono livelli preoccupanti quanto a indici, e vedremo anche di capire da quant'è che lo Standard & Poor's 500 non scendeva sotto quei livelli di punto. Ma soprattutto il dato americano, almeno 6,2%, porta l'economia americana a un livello che non vedeva come due trimestri consecutivi di calo dal 1991. E questo lo dice lunga anche su quanto stia ritracciando l'economia americana in senso complessivo. Poi c'è il caso Citigroup, e il titolo, dopo l'ulteriore ingresso fortissimo dello Stato in preapertura, è arrivato a perdere oltre il 40%. Secondo gli analisti è una vera e propria nazionalizzazione, visto che il tesoro americano convertirà 25 miliardi di dollari, salendo così dall'8 al 36%, in un gruppo che era il numero uno a livello bancario in America, e oggi ha rivisto i dati sulle perdite del 2008. Insomma, nel 2008 ha perso quasi 28 miliardi di dollari, una cifra enorme, anche perché vale un paio di manovre finanziarie. Sempre su questo fronte cercheremo di capire come mai gli annunci di Barack Obama sul cosiddetto budget americano, e quindi tutte le intenzioni di aiutare l'economia americana, non solo il settore sanitario ma anche il resto, non abbiano avuto un effetto in questa settimana. Poi parleremo anche dei casi di casa nostra, ossia della riforma parziale, solo per quello che riguarda il settore dei trasporti, delle regole sullo sciopero. Ve ne hanno già raccontato le novità principali dei nostri GR, e avremo anche un'intervista al numero uno di Microsoft Italia e vicepresidente di Microsoft Corporation, per capire come va il settore dell'information technology. Spesso dimentichiamo di trattare anche questo settore tra quelli in difficoltà, non è quello più in crisi, ma i licenziamenti annunciati anche da Microsoft non sono poca cosa. 349-238-6666 per i vostri sms e le notizie in breve. Allora, al di là degli Stati Uniti, voi già chiedete l'andamento dei titoli in borsa. Attenzione, Telecom Italia resta positiva, ha un po' ritracciato, più 1,7%, Bulgari più 2,6%, chi perde di più in questo momento è Enel, meno 6,7%, e poi un gruppo di banche, anche se le banche oggi non sono tutte tra le peggiori a Milano. Fiat fa peggio, infatti perde 6,5%. Prismian perde 4,5%, poi Fondiaria 6,5%, Generali 6%, la Popolare di Milano perde 4,80%, ma male anche A2A e altri titoli legati al settore energetico. Unicredit, visto che lo chiedete, perde l'1,7%, altre banche come Intesa perdono il 2,5%. Dicevamo, tra le altre notizie di questa giornata, sono tutte notizie che vertono attorno alla crisi, perché se lo Standard & Poor's 500 è scivolato sotto i 734 punti, quindi ai minimi da 12 anni, e già questo la dice lunga sul tipo di crisi che sta affrontando la borsa americana, oggi si è avuta una notizia un po' in controtendenza, ossia le banche cinesi nel 2008 avrebbero registrato utili in aumento, cioè del 30%, utili al netto delle imposte pari a 583 miliardi di RMB, insomma 86 miliardi di dollari. E tra l'altro è la stessa autorità di vigilanza di Pechino che dice l'impatto della crisi finanziaria sulle banche cinesi è limitato e i rischi sono sotto controllo. E sempre per quello che riguarda le banche cinesi è abbastanza sorprendente il fatto che siano diminuiti anche i crediti a rischio. La percentuale dei crediti a rischio nel 2008 è scesa dal 3,7 al 2,4%. E visto che insomma i crediti a rischio sono la mina che ha fatto detonare questa crisi, è interessante vedere come in Cina invece questo problema, stando a quello che riferiscono le autorità cinesi, non si sia verificato. Il Giappone invece continua a fornire dati che riportano l'economia nipponica a livelli mai visti dal 1967 per quello che riguarda il crollo della produzione auto, per esempio meno 41%. Complessivamente il Giappone ha segnato un meno 10% a gennaio nella produzione industriale. Passando all'Europa, è entrata in recessione anche la Svezia. Nel quarto trimestre il PIL svedese ha fatto un meno 4,9% e a seguire anche la Finlandia. Il quarto trimestre dell'anno che si è appena chiuso ha visto il PIL finlandese calare dell'1,3%, in recessione anche la Danimarca. Insomma, tutta l'area scandinava si è messa in coda nella lista dei paesi che ormai hanno tecnicamente entrati in recessione. E attenzione, perché poi altri dati la dicono lunga sulle difficoltà dell'Est Europa. La Polonia, per esempio, ha chiesto di poter accelerare le procedure per l'ingresso nell'euro, visto che l'euro si sta rivelando, e lo dico anche a chi negli anni scorsi era molto critico sull'euro e sulla sua utilità, si sta rivelando il vero scudo per i risparmi degli europei. La moneta unica è molto forte. La Polonia vuole entrare il prima possibile in questo scudo definito formidabile contro la crisi finanziaria ed economica. E quindi non solo l'Ungheria, ma anche la Polonia vogliono aderire il prima possibile all'euro. Per quello che riguarda l'Italia, invece, Unioncamere oggi ha fatto sapere che nel 2008 i protesti sono aumentati non tanto di numero ma di valore. Gli assegni e le cambiali protestabili sono in circolazione nel 2008, infatti sono salite di pochissimo come numero, ma il valore dei protesti è salito dell'11% e il monte complessivo dei pagherò non onorati, o dei cabriolet come li chiamano alcuni, gli assegni scoperti, dei pagherò non onorati ha superato complessivamente i 4 miliardi di euro, 4 miliardi e 100 milioni. La produzione industriale, secondo il Centro di Confindustria, a febbraio, a parità di giornate lavorative, sarà un meno 15% in Italia sulla produzione industriale rispetto all'anno prima. Io mi rendo conto che a forza di previsioni del genere uno si anestetizzi quasi con queste stime, ma insomma è veramente una situazione che necessita di nervi saldi nei prossimi mesi e settimane. Per quello che riguarda gli scioperi, ne parleremo nella seconda ora del programma, via libera comunque del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per riformare lo sciopero nel settore dei trasporti, con, come raccontavamo anche ieri, l'introduzione in alcuni casi dello sciopero virtuale e comunque la necessità o l'obbligo, per meglio dire, di un referendum consultivo tra i lavoratori quando i sindacati non rappresentano più del 50% dei lavoratori della categoria. L'Istat fornisce un dato oggi sugli occupati nelle grandi imprese, meno 0,7% a dicembre, ma soprattutto è volato il ricorso alla cassa integrazione. Praticamente le grandi imprese hanno avuto un aumento di ricorso alla cassa integrazione pari a 28 ore per 1000 ore lavorate, cioè 9 ore in più per 1000 ore lavorate rispetto a novembre e 18 ore in più rispetto all'anno precedente. E per fortuna che c'è l'IKEA, lo stiamo raccontando questa crisi anche attraverso i cosiddetti settori low cost. Non c'è solo McDonald's ad assumere, o H&M, la catena dell'abbigliamento a basso prezzo, l'IKEA assumerà 1000 persone. La notizia già si sapeva, ma oggi si è avuta conferma: 1000 nuove assunzioni con 4 nuovi negozi, punti vendita entro il 2009, con 200 milioni di euro investiti. E poi l'accordo che era presente oggi su qualche giornale dell'acciaieria bresciana Alfa Acciai, in cui si è avuta una forma di contratto di solidarietà per cui di fronte a un calo produttivo del 35% i dipendenti si ridurranno l'orario di lavoro da 40 a 31 ore, perderanno il 7% della retribuzione, si lavorerà solo di notte e nei weekend in modo da risparmiare sul costo della bolletta, perché per le imprese costa meno la sera e nei periodi non di picco. In questo modo verranno evitati però i licenziamenti. E poi c'è chi, come Ryanair, pensa addirittura di far pagare un piccolo pedaggio per i passeggeri della compagnia low cost che dovessero recarsi in bagno durante il volo. O'Leary non è una battuta, ma insomma il numero uno Michael O'Leary ha detto che per continuare a offrire tariffe molto basse ai clienti di Ryanair si sta pensando, oltre che all'introduzione già effettuata di un costo per i bagagli in eccesso e l'eliminazione dei check-in in aeroporto, anche di un pedaggio per chi volesse recarsi in bagno. E con la crisi che c'è, immaginiamo, diciamo, vesciche dilatate in aereo. Allora andiamo avanti, non sappiamo oggi da dove prenderla. Per quello che riguarda la Federazione Internazionale dell'Automobile, la FIA ha annunciato che il 17 maggio si terrà un consiglio mondiale per valutare le nuove regole proposte per limitare i costi delle scuderie di Formula 1. E anche la Formula 1, non è solo il moto mondiale, è in difficoltà. Chiaro che gli sponsor hanno meno soldi, e se la Honda ha annunciato oggi che sarà regolarmente in pista alla partenza del Gran Premio in Australia, è chiaro che tutte le scuderie vorrebbero spendere un po' di meno, avere un mondiale che costi un po' di meno. Notizia di poco fa: General Motors potrebbe chiudere la Opel, anzi General Motors ha detto che la Opel rischia il fallimento se la Germania non darà subito 3 miliardi e 300 milioni di euro nell'arco di pochissime settimane, altrimenti secondo quanto citano alcune agenzie non resterà altro alla General Motors che chiudere gli stabilimenti della Opel in Europa. Bene, si fa per dire, partiamo col primo tema. Il PIL americano, peggio di ogni attesa, crolla, meno 6,2% contro una prima stima del 3,8% e comunque una previsione degli analisti che lo collocava a un meno 5,4%. Eh sì, perché è proprio una contrazione che segue quella dello 0,5% segnata tra luglio e settembre. Due trimestri consecutivi di crescita negativa non si vedevano in America dal 1991. La spesa dei consumatori è calata molto, meno 4% su base annua, ed è questo un tasso che non si vedeva in America come calo o crollo dei consumi dal 1980. E quindi nel 2008 abbiamo scoperto che l'America alla fine è cresciuta dell'1,1%, quindi meno di quanto stimato precedentemente, ma soprattutto entra nel 2009 in netta frenata. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Eccoci, buonasera. Allora Mario, abbiamo preparato anche alcune passaggi dei vari interventi fatti da Barack Obama in questa settimana cruciale, perché ha presentato il budget, la legge finanziaria, il primo appuntamento lo scorso martedì davanti alle Camere del Congresso, ha detto usciremo dalla crisi. Insomma, ciò nonostante, nemmeno Obama sembra in questo momento in grado di fermare la deriva sui mercati. Partiamo però dal PIL e poi ci spostiamo su Citigroup e la parte finanziaria, sentiremo anche il piano di Obama. Come mai una revisione così brutta, visto che la prima lettura, come si chiama in gergo, cioè la prima stima era un meno 3,8%, oggi seconda lettura meno 6,2%? E beh, perché chiaramente i nodi vengono al pettine, chiaramente le proiezioni statistiche, le correzioni, gli aggiustamenti ponderati in una situazione di relativa normalità ti consentono di mantenere più o meno invariati quelli che sono i risultati statistici della primissima mandata, ma quando ci troviamo in una situazione di burrasca come quella in cui ci troviamo oggi, beh, salta tutto, come saltano i parametri per il mercato, per fare dei prezzi su dei prodotti finanziari, per salvare le banche, e beh, temo che saltano anche i parametri che finora hanno regolato le leggi che sembravano ferre dell'econometria, e a questo punto ecco che salta il dato e ci troviamo con questo 6,2% che, vorrei dire, è molto più vicino a quello che si aspettavano gli economisti. Mediamente gli economisti americani avevano stimato che il tasso di recessione, chiamiamolo americano, sarebbe stato del 5,52% per il quarto trimestre, quindi è stato un dato a sorpresa, devo dire, per tutti noi quando abbiamo visto questo 3,8%. Ecco, questo dato del 6,2% in qualche modo riaggiusta un pochettino la situazione. Partiamo più realisticamente da quel 5% che era stato stimato dalla maggioranza degli economisti americani. Allora un passaggio dal 5 al 6,2 non è poi così drastico. Vorrei dire anche che per il primo trimestre di quest'anno, il trimestre in corso, ci si aspetta un altro dato molto brutto, ci si aspetta un'altra caduta di un altro 5%, mediamente, no. Poi che sia il 4 che sia il 6 non lo sappiamo, però stiamo viaggiando su questi numeri, e quindi la frenata è brusca. Abbiamo visto del resto la borsa come si è comportata in questi ultimi tempi, e qui, caro Sebastiano, devo dirti che ci stiamo avvicinando pericolosamente all'ultima soglia di sostegno di questo fase, diciamo, post crisi, post 14 settembre, post nazionalizzazione, post fallimento Lehman Brothers, e cioè alla quota 7.000. Siamo oggi a 7.100, è il minimo finora, meno 81, la borsa sta perdendo in questo momento l'1%, sembra che quasi sia, debba essere un passaggio obbligato questo sfondamento di quota 7.000, l'ingresso nel territorio dei 6 prima di un rimbalzo. Finora il mercato ha resistito, resiste, tiene duro, però restiamo comunque in una fase straordinariamente incerta anche da quel punto di vista. Allora, molti messaggi, andiamo con ordine perché i temi sono tanti. Da un lato Mario Patera ci ha appena ricordato quanto, insomma, già gli economisti non si aspettassero un dato come quello della prima lettura. Certo, a nessuno fa piacere vedere un meno 6,2%, lo Standard & Poor's è sceso a un livello, volete di nuovo il dato, che non vedeva da 12 anni, 734 punti, adesso ha un po' recuperato a 741, ma insomma questi sono i livelli, la quota 7.000 punti, quella che ha il Dow Jones in questo momento 7.100, speriamo che Mario Platero abbia torto, perché vorrebbe dire rompere una soglia tecnica, ma è chiaro che questa è la prossima linea del Piave, se mi passate il paragone. Che cosa è successo in questa settimana, Mario? Sentiamo Barack Obama martedì, quindi l'altro ieri, tra virgolette, dire: l'economia è indebolita ma si riprenderà, nel momento in cui annuncia il pacchetto della legge finanziaria americana. Io ricordo che complessivamente fino adesso, tra soldi messi dentro le banche, soldi messi per il sistema automobilistico, soldi messi per i mutui delle famiglie americane, garanzie messe a sostegno del capitale bancario e dei depositi americani, l'amministrazione americana, nel passaggio Bush-Obama, ha tirato fuori o garantito 8.000 miliardi di dollari, se sommiamo tutte queste voci, fondi di garanzia, ingressi veri e propri e quant'altro, siamo a 8.000 miliardi di dollari. Barack Obama, martedì 24 febbraio, davanti alle Camere riunite del Congresso. The state of our economy is a concern that rises above all others. Lo stato del nostro sistema economico è la preoccupazione principale che va oltre le altre. Anche se non siete stati colpiti direttamente dagli effetti della recessione, probabilmente conoscete qualcuno che lo è stato. Un amico, un vicino, un membro della vostra famiglia. Non avete bisogno di leggere altre statistiche per sapere che la nostra economia è in crisi, perché lo vivete sulla vostra pelle ogni giorno. La parola crisi è quella con cui vi svegliate ogni mattina. Avete perso il lavoro che avevate, le opportunità su cui avete costruito i vostri sogni sono appese a un filo, le lettere per iscrivere i vostri figli ai college sono state riposte nelle buste. L'impatto di questa recessione è reale e diffuso ovunque. La nostra fiducia è scossa. Stiamo vivendo un periodo difficile e incerto. Stasera voglio che tutti gli americani sappiano che ricostruiremo la nostra economia e che gli Stati Uniti d'America usciranno dalla crisi più forti di prima. We will recover and the United States of America will emerge stronger than before. Così Barack Obama martedì 24 febbraio. Mario Platero, poi arriveremo nella seconda parte al caso Citigroup, perché quella banca che era la prima banca americana ormai è di fatto nazionalizzata, dentro un processo di nazionalizzazione, e sta crollando in borsa. Come mai nemmeno Barack Obama, nemmeno con il piano che ha annunciato, nemmeno con i 600 miliardi annunciati per la sanità, con tutte le garanzie emerse in questi giorni, riesce a fermare questo, diciamo, flusso di vendite continuo? Beh, direi che il piano di Barack Obama è quanto di peggio Wall Street poteva aspettarsi. Mi è capitato ieri sera di vedere un gruppo di banchieri finanzieri qui a New York e devo dirti ce ne sono ancora? Tutti, beh sì, quelli che resistono, quelli che fanno gestione. Ormai come i panda in Cina, visi lunghissimi naturalmente, e devo dire ancora più lunghi del normale dopo questo piano di Obama. Perché? Perché c'è un po' una rivoluzione copernicana, o meno un ritorno alle origini con questo piano di Obama, perché al di là del pacchetto anticrisi, quello di cui tu stesso parlavi, questi 8.000 miliardi che in qualche modo sono stati stanziati, garantiti e così via, e che in parte sono riflessi in questo bilancio, ma solo in parte, perché alcune cose sono di nuovo off balance sheet, alla fine è uno strumento utilissimo che poi fa comodo, oltre a che alle banche, fa comodo evidentemente anche al governo americano. Ma al di là di quello, Obama sta portando una rivoluzione in America, vuole introdurre la riforma sanitaria, vuole spendere 640 miliardi di dollari. E come li vuole finanziare? Con un aumento delle tasse, vuole aumentare dal 15% al 35% alcune aliquote, per esempio per hedge fund o private equity fund, quindi tutti questi operatori si ritrovano improvvisamente con dei costi in arrivo più forti, ecco. Vuole introdurre nuove regole, quindi su tutto quello che è stato il fronte che ha portato le ali, diciamo, al mercato, improvvisamente il mercato si trova col piombo su queste stesse ali e quindi è preoccupato, non solo perché non sa bene come andrà a finire questa crisi e quanto ci vorrà, ma perché si rende conto che c'è un'impostazione che cambia il modello economico e finanziario su cui ha appoggiato l'America e l'economia globale, la finanza globale negli ultimi 20 anni. Beh, qualcosa debba cambiare, voglio dire, mi sembra ovvio, visto il disastro comunque che ha portato questo liberismo o questa finanziarizzazione del capitalismo. Sentiamo il passaggio in cui Barack Obama, a cui tu facevi riferimento, spiega la, come tu l'hai chiamata, rivoluzione copernicana, ossia aumento delle tasse sopra i 250 mila dollari l'anno per finanziare 640 miliardi di investimento nella sanità. Ci sono alla fine 39 milioni di americani, se non ricordo, 48 milioni di americani che non hanno alcuna assistenza sanitaria, e comunque l'America sta tirando fuori tanti di quei soldi che porteranno il deficit a un livello record di 1.752 miliardi, quindi da qualche parte i soldi Obama li deve prendere, e allora ecco il modo. We will root out the waste and fraud and abuse. Elimineremo gli sprechi, scoveremo ed estirperemo le frodi fiscali e gli abusi nel sistema sanitario. Ristabiliremo un senso di lealtà ed equilibrio ponendo fine alle agevolazioni fiscali. In order to save our children from a future of debt, we will also Per preservare i nostri figli da un futuro di debiti, elimineremo le agevolazioni fiscali per il 2% degli americani più benestanti. Voglio essere estremamente chiaro. Se la vostra famiglia guadagna meno di $250,000 all'anno, non vedrete aumentare le vostre tasse di nemmeno 10 centesimi. Ripeto, nemmeno 10 centesimi. Infatti, il piano di ripresa prevede un taglio delle tasse per il 95% delle famiglie che lavorano. E queste verifiche sono già in corso. Chiaro, chiarissimo, dove prenderà i soldi Obama? Il deficit americano viaggia già sopra il 10%, da noi forse arriverà al 3,8, ma lì siamo già oltre il 10 con previsioni di un 12%. Mario Platero, dopo la pubblicità e il meteo, come in questa vicenda si inserisce il caso di Citigroup, perché oggi praticamente il tesoro americano si è comprato un altro quasi 30% di quella che era la prima banca in America, che adesso diventa la prima banca nazionalizzata in America, se vogliamo giocare sulle definizioni. ...17:37 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e Mario Platero in collegamento da New York per commentare un'altra difficile giornata di borsa. Allora, le borse hanno chiuso in Europa con 2,5% di calo, molto male Enel, da noi meno 7,2%, Fondiaria meno 6,7%, Fiat meno 6,4%, Generali meno 6%. Sta perdendo però in America Citigroup il 31% in borsa. Citigroup era, prima della crisi, la prima banca americana per capitalizzazione. Pensate che nel 2007 valeva come capitalizzazione di borsa $255 miliardi, adesso ne vale 9. Immaginiamo se una casa passasse da 255 mila euro di valore a 9 mila euro, che cosa sarebbe per il proprietario. Le perdite accumulate hanno già superato gli $80 miliardi. Il governo americano ha già buttato dentro 45 miliardi più altri 250 miliardi di sostegni a garanzia, e oggi il tesoro si è comprato un altro 30% quasi, cioè è passato dall'8 al 36% di Citigroup. Di fatto la banca è nazionalizzata, o comunque il tesoro è l'azionista di riferimento, per meglio dire. Nel mondo degli analisti, insomma della finanza americana, il soprannome di Citigroup è Zombie Bank. Mario Platero, come si fa a non fare a questo punto fallire il colosso americano del credito? Beh, questa è la domanda, direi, da un altro migliaio di miliardi di dollari, perché finora il governo americano, con la decisione di oggi, conferma che tutto quello che ha messo finora in Citigroup non è bastato. Stiamo parlando di $50 miliardi di capitale fornito dal governo e di una garanzia su $300 miliardi in titoli tossici, quindi una garanzia complessiva di $350 miliardi, una componente di quegli 8.000 miliardi di cui si parlava prima. E dunque non è bastato, e nessuno sa, non si capisce che cosa basterà. Per questo oggi il mercato ha reagito molto male, perché è molto facile dal 36% di azionariato, diciamo Citi, che il governo avrà a partire da questo weekend, passare a un 45, un 50, un 60, un 70%. È chiaro che il messaggio ormai è passato: Citigroup non fallirà, si proteggeranno i consumatori, si proteggeranno i depositi, si cercherà di tenere in piedi la struttura finanziaria, e quindi la ratio ultima è quella della nazionalizzazione. Oggi è il primo passo. Ci sono una serie di elementi, naturalmente, per esempio il governo entrerà e cercherà di avere una maggioranza, o meglio ha ottenuto la garanzia da Citi che si cambierà la fisionomia del Consiglio di amministrazione e ci saranno dei consiglieri indipendenti, quindi non nominati dal vertice o dall'azionariato Citigroup, ma completamente esterni, e dunque con l'assenso del governo. E la prima manifestazione concreta dell'ingresso di Washington, del Tesoro, dello Stato americano, nella gestione operativa di una banca, perché diciamocelo, sul piano formale si dice che non si farà nulla, il manager, l'amministratore delegato resterà Vikram Pandit, le cose andranno avanti come sono andate avanti finora da un punto di vista di gestione e di gerarchia, però è chiaro che ai vertici le cose in qualche modo cambieranno e la mano dello Stato finirà per entrare. Quel che preoccupa è questo crollo del 31% di cui tu parlavi prima, e di questa vaporizzazione del, cioè, del ogni volta che il tesoro americano mette soldi il mercato glieli brucia, nel senso che è chiaro che se poi l'effetto è mettere, come ha fatto oggi, convertire 25 miliardi di dollari e il titolo perde il 30%, ti si è già bruciato un terzo di questi 25 miliardi di dollari che hai convertito nell'arco di una giornata. Stiamo parlando alla fine di 8 miliardi bruciati così. Diciamo che questo è stato un passaggio contabile, nel senso che oggi formalmente il governo non ha messo nuovo denaro, ma quello che ha fatto è stata una conversione del 7,2% di titoli privilegiati che aveva già in portafoglio a fronte del capitale e delle garanzie che aveva dato. Ecco, li ha convertiti attraverso una formula complicatissima in un 36% di capitale di azioni ordinarie. Quindi Il messaggio del mercato è devastante, questo era quello che cercavo di dire, perché non puoi perdere il 31% quando poi il tesoro ti dimostra ancora una volta che quella banca non fallirà, perché casomai diventerà una nuova Royal Bank of Scotland, una delle prime due banche britanniche che ormai appartiene tutta allo Stato britannico per il 70%. Ultima domanda che ho per te, Mario Platero, riguarda un tema delicatissimo anche nel caso di Royal Bank of Scotland. I capri espiatori, o meglio i colpevoli, perché vedo alcuni che scrivono i banchieri americani sono come la nobiltà a Versailles prima della rivoluzione. Beh, paragone un po' forte, ma ci può stare. Perché ci può stare? Perché il numero uno di Citigroup, Charles Prince, che l'ha guidata fino al 2007 sta banca, ha guadagnato 44 milioni di dollari complessivamente, e anche nel 2008, quando già tutto il bubbone dei prodotti tossici stava per scoppiare, si è preso, per non farsi mancare nulla, stock option per 2 milioni e mezzo di euro. Qualche settimana fa è dovuto intervenire lo stesso Barack Obama, perché Citigroup voleva continuare col progetto di comprarsi un nuovo jet aziendale da 52 milioni di dollari, e qui stiamo veramente al valzer del Titanic per la Zombie Bank. Così come ieri ha fatto molto discutere la lettera che lo stesso ministro dell'economia britannico Alistair Darling ha scritto all'ex numero uno di Royal Bank of Scotland, chiedendogli se riteneva corretto avere una pensione di 600.000 sterline all'anno, dopo che già aveva preso 8 milioni di sterline di liquidazione e aveva guadagnato complessivamente, da quando guidava Royal Bank of Scotland, 30 milioni di sterline. E allora, Mario Platero, è immaginabile che a questo punto capro espiatorio è un tema che non mi piace, anche perché questi banchieri hanno enormi responsabilità, ma che si inizi anche a portare, non più di fronte al Congresso ma di fronte ai tribunali, chi sta piegando l'intera economia americana? Beh, ha cominciato sicuramente Andrew Cuomo, il procuratore generale qui a New York, che ha messo sotto il torchio John Tyne, ex capo di Merrill Lynch, anche lui in qualche modo colpevole non solo di essersi pagato dei bonus molto generosi, ma di aver stanziato 3,6 miliardi di dollari da dare in bonus dopo aver ricevuto gli aiuti federali. Quindi di fatto sono entrati questi aiuti federali per poi essere distribuiti in bonus speciali a un numero tra l'altro relativamente limitato di dipendenti, perché si parlava di un centinaio di persone. Dunque la marea sale. Io credo che inevitabilmente a un certo punto il Congresso, e Barney Frank, che è il capo della Commissione Finanza alla Camera ed è responsabile in particolare per questo tipo di iniziative, finirà per istituire una commissione d'inchiesta speciale. Questa commissione d'inchiesta speciale avrà un procuratore, si è parlato di Patrick Fitzgerald, che è il personaggio che a suo tempo mise in crisi il governatore, il famoso Blago, il governatore dell'Illinois, lui è a Chicago, è un repubblicano tra l'altro, ma è giudicato di straordinaria statura. Ma queste sono tutte ipotesi, questo per darti l'idea che comunque sì, l'atmosfera è quella, l'idea è che prima o poi qualche cosa si dovrà fare per ricostruire come si è arrivati a questo. E ti dirò, ci sono dei precedenti che però rischiano anche di portare la caccia alle streghe. Per esempio Mellon, che nel 29 era il ministro del tesoro, fu poi portato davanti a una commissione d'inchiesta ben oltre il 29 e il 30, quando lui era ministro ci fa il crollo, ma addirittura nel 35-36, e poi rimase invischiato in tribunali fino alla sua morte. Ecco qui chi sono i personaggi. Dobbiamo, possiamo immaginare che un uomo come Alan Greenspan, per esempio, possa essere chiamato a rispondere delle sue azioni? Possiamo immaginare che al di là di Chuck Prince, che francamente l'ho conosciuto, lo conosco, ma non è stato un grande leader economico-finanziario. Su questo... Le menti erano altre, c'era Bob Rubin, l'ex segretario al Tesoro, c'era soprattutto Sandy Weill che ha creato questa enorme istituzione. Quindi tutto questo, secondo me, alla fine finirà per passare sotto il la lente di ingrandimento, sotto il microscopio degli investigatori, per capire se primo se è stata violata la legge e secondo se ci sono dei soldi che devono essere restituiti. Confermo invece chi scrive che il piano di Obama è ambizioso sul fronte degli investimenti alla scuola, 145 miliardi, alla sanità 640 miliardi e aumenterà le tasse per i redditi sopra $250,000. È chiaramente una rivoluzione nella manovra di bilancio e politiche di bilancio americane. È chiaro che insomma, questa è la nuova linea che vuole prendere Barack Obama, può o meno piacere, ma è finita un'epoca, è finita l'epoca della defiscalizzazione dei bonus, dell'idea che tassando di meno l'economia ripartisse, e torneranno i controlli, tornerà uno Stato, un welfare system americano sotto ogni forma, sanità, scuola, ma anche e soprattutto comprandosi pezzi di banche per ora. Grazie a Mario Pratero in collegamento con noi da New York per averci raccontato un'altra giornata difficile, più sul fronte delle prospettive che solo di quello borsistico. Ripeto, meno 6,2% il PIL americano nell'ultimo trimestre dell'anno, peggio di ogni previsione. Conclusa quindi la parentesi americana per ora. Altre notizie dai mercati: l'euro è debole a 1,26,6, come ha chiuso Milano lo dicevamo meno 2,4%, non sui minimi per fortuna, anche se la giornata non è delle migliori. MIBT meno 2%, Parigi meno 1,5%, Francoforte tra le peggiori meno 2,5%, Londra meno 2,4%. L'America adesso sta recuperando e non poco, perde solo lo 0,4%. Confermo invece che Citigroup è arrivata a perdere poco fa il 31% in borsa. E allora, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Partiamo subito dai titoli, i motivi ormai li conosciamo, il dato sul PIL americano ha affossato per buona parte della seduta tutte le borse. Perché Enel perde il 7,2%? Beh, per quanto riguarda Enel, l'andamento negativo è iniziato molto prima della pubblicazione del dato sul PIL statunitense. A pesare sono state le indiscrezioni pubblicate quest'oggi dal Sole 24 Ore e confermate dalla stessa società attraverso una nota dell'aumento di capitale. Esatto, indiscrezioni che parlano di un aumento di capitale tra i 5 e i 7 miliardi, aumento di capitale, insomma, che non è piaciuto molto al mercato, non piace mai per la verità, ma dopo l'annuncio dell'operazione Acciona e quindi l'operazione dell'acquisto della quota di Acciona in Endesa, il mercato non si aspettava, diciamo così, che pochi giorni dopo potesse emergere un'indiscrezione di questo tipo per quanto riguarda Enel, e ha pesantemente penalizzato il titolo facendogli perdere oltre il 7%. E quindi scende sotto i 4 euro per azione come ultimo prezzo, 3,94 euro. Questo per quello che riguarda Enel. Poi c'è la pattuglia delle assicurazioni. Per i primi mesi di questa, della parte più virulenta di questa crisi, perdevano più le banche dei gruppi assicurativi. Adesso stiamo assistendo a un livellamento anche lì, mi sembra perlomeno di vedere. Fondiaria meno 6,7, Generali meno 5,9. Generali scende sotto i 12 euro per azione a 11,92 euro. Fondiaria si avvicina a andare sotto i 9 euro per azione, 9,2 la chiusura oggi, l'ultimo prezzo oggi per Fondiaria. Sai, Alleanza perde il 4,5%. Le assicurazioni. Sì, una giornata molto negativa, come tu ricordavi effettivamente correttamente. Nelle ultime settimane le vendite sul settore assicurativo hanno molte volte superato quelle del comparto bancario, forse perché c'era anche meno da vendere. Per quanto riguarda Generali e Alleanza, sono stati davvero pochi i giorni, le sedute, direi una, due 2 in cui i titoli hanno rialzato la testa dopo l'annuncio della fusione tra le due compagnie, nonostante il mercato, o meglio gli analisti, abbiano giudicato positivamente questa mossa di Generali dal punto di vista industriale, un po' meno diciamo così per gli azionisti e per gli azionisti di Alleanza in particolare, perché appunto non è avvenuto attraverso il lancio di un'OPA ma attraverso un'offerta pubblica di scambio, e questo ha portato, con il peggioramento dei mercati, a penalizzare l'intero comparto assicurativo, che oggi ha fatto decisamente peggio rispetto a quello delle banche, almeno per quanto riguarda Piazza Affari. Allora, chiedono alcuni di voi perché l'aumento di capitale di Enel viene visto come una cosa negativa. Beh, perché si vuole intanto sapere perché hai bisogno di questi tra i 5 e i 7 miliardi. Poi non è un bel momento per fare gli aumenti di capitale con quello, con il mercato, con la richiesta che c'è in giro di denaro. Sicuramente altri sono i momenti per farlo, e appunto, come ricordava anche Andrea Fontana e come oggi scrive Laura Serafini su Sole 24 Ore, insomma, nessuno immaginava che dopo il perfezionamento dell'operazione spagnola Enel avesse bisogno di soldi. Quindi quando uno chiede soldi, l'aumento di capitale, questo è, di solito uno resta perplesso, a meno che non sia chiarissimo il motivo e attesa la richiesta, un po' come avviene nella vita privata. Andiamo avanti. Fiat meno 6,4% a 3,56 euro, Mondadori meno 5,4, Prismia meno 5,3, L'Espresso meno 4,7, A2A meno 4,3, ST Microelectronics meno 4%, e ancora le banche Unipol meno 3,9, Popolare Milano meno 3,7%. Gli energetici. Il comparto energetico oggi, appunto, a parte il discorso di Enel, si è mostrato tutto sommato in grado di sostenere, soprattutto nella seconda parte diciamo così, di viaggiare in controtendenza, tanto è vero che è stato proprio un po' lo spostamento di alcuni titoli dell'energia e poi soprattutto quello di Telecom Italia dopo l'uscita dei conti a permettere all'SP MIB di chiudere lontano dai minimi che avevano addirittura toccato perdite superiori al 3%. Nel comparto energetico sono andate meglio i titoli più difensivi come Terna e come Snam Rete Gas. Terna ha guadagnato oltre l'1%, Snam mezzo punto percentuale. Riprendo il discorso di Fiat che tu accennavi, una forte perdita per il gruppo automobilistico. Oggi il settore dell'auto molto in difficoltà, Fiat è stata anche penalizzata dalle valutazioni dell'agenzia di rating Moody's, che sottolinea come secondo le loro valutazioni la cassa, quindi il flusso di cassa operativo a disposizione di Fiat non è sufficiente in questo momento per coprire il totale fabbisogno del gruppo nel corso del 2009, cioè fabbisogno legato alle spese di capitale, al capitale operativo, alle necessità appunto operative quotidiane e alla scadenza del debito. Allora, un po' più rapidi perché ci sono anche altri titoli. Telecom Italia, dopo il piano e tra l'altro i conti soprattutto migliori delle attese, guadagnava bene, poi ha chiuso con un più 0,3%. Bulgari molto forte, più 3,6%, Parmalat più 1,7%, Mediolanum più 1,3%, Terna più 1,1%, Snam Rete Gas mezzo punto percentuale di rialzo, bene anche in Pregilo dopo i ricavi diffusi ieri, crescita del 10%, e anche la redditività, scusatemi, in aumento. Bulgari più 3,6%, cos'è? Si investe nei gioielli come piano anticrisi o è l'euro che è sceso a 1,25? Beh, insomma, non direi il primo fattore che tu ricordavi, certamente c'è stata anche un'indicazione diciamo così positiva arrivata da UBS, è qualche giorno che Bulgari sta cercando di risollevarsi dai minimi. UBS non consiglia più, ha tolto la raccomandazione di vendere invece il titolo nel breve termine che aveva precedentemente, e questo ha permesso un po' insieme dei movimenti euro-dollaro di favorire il titolo. E tra gli altri titoli positivi di oggi, come tu ricordavi, va segnalato il più 1,7% di Parmalat dopo che il Tribunale di New York si è pronunciato contro la richiesta di Grant Thornton di appunto sospendere sostanzialmente la disputa con Parmalat. Il processo invece andrà avanti, la causa andrà avanti e in questo senso il mercato ha scommesso su una... Che Parmalat possa recuperare, visto che andrà avanti il processo, riesca a recuperare anche qualcosa, vedremo, perché se avanti così poi non ci saranno più le controparti in America a questo punto di quella vicenda. Per quello che riguarda, ci chiedete la sterlina britannica, 88 pence per un euro, i migliori e peggiori in assoluto. Dunque, il peggiore, vai, le IFI privilegio hanno perso il 12%, l'IFI le ordinarie il 9,6%, AXA ha perso l'8,50%, i migliori, Coin più 11%, Gemina sul risparmio non convertibili più 9,80%, Tiscali più 6,4%. Grazie, Andrea Fontana, Radio Core, Sole 24 Ore. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, ultima puntata della settimana che si è chiusa male per le borse. Devo dire che adesso l'America sta recuperando tutto. Una volta tanto in diretta commentiamo un recupero di Wall Street, è invariato adesso il Dow Jones e il Nasdaq è passato addirittura in zona positiva, più 0,3%, Standard & Poor's 500 meno 0,6%. Va invece molto male, cioè continua a crollare, Citigroup meno 33% sul mercato. Alcuni di voi hanno scritto al 349-238-6666, beh, è ovvio che Citigroup crolli nel momento in cui il tesoro americano passa dall'8 al 36% del capitale, di fatto nazionalizzando la banca, anche se così non si potrebbe dire in senso stretto. Perché agli azionisti non piace averlo lo sto dentro, hanno timore che i dividendi, quali dividendi non lo so, ma non vengono più distribuiti e quant'altro. Beh, era l'unica cosa da fare, però l'alternativa era far fallire Citigroup, che già ha dichiarato 300 miliardi di esposizione sui prodotti tossici e non si sa ancora quanta altra robaccia abbia in pancia. Detto ciò, il dato del PIL americano l'abbiamo commentato in tutta la prima ora, meno 6,2% l'ultimo trimestre del 2008, bruttissimo la frenata per l'economia americana, che si riporta complessivamente a dei livelli che non vedeva da 15 anni, sia come dato sia come frenata del PIL. In Italia meno 15% la stima di Confindustria sulla produzione industriale a febbraio. E poco fa ha parlato delle richieste industriali la presidente Confindustria Emma Marcegaglia, perché a inizio marzo dovrebbe partire il tavolo per fare il punto area per area e quindi città per città, per vedere come sta andando il flusso del credito bancario verso le imprese. Le banche dicono che non l'hanno chiuso, a noi arrivano segnalazioni di altro genere. E questi tavoli hanno il compito di monitorare città per città se vi sia o meno un restringimento del credito bancario verso le imprese. Marcegaglia. Ci aspettiamo concretizzazione dei tavoli da fare città per città, proprio per evitare che manchi il credito anche successivamente ai Tremonti Bond. Ci aspettiamo che la SACE diventi veramente un assicuratore del credito per le piccole e medie imprese e possa anche finanziare le esportazioni delle imprese, e ci aspettiamo comunque qualche segnale chiaro sul tema di un fondo di garanzia statale che possa permettere alle imprese di mantenere il proprio credito e soprattutto di allungarlo nel tempo. In questo momento devo dire, mentre fino a qualche mese fa erano sostanzialmente i settori dei beni durevoli a soffrire, quindi auto, elettrodomestico, oggi devo dire che sostanzialmente la crisi è arrivata a tutti i settori, quindi io direi che la debolezza sta un po' ovunque e sta soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese, che sono quelle più esposte proprio ai problemi del credito. così la presidente di Confindustria Marcegaglia poco fa, intervistata dalla nostra Roberta Pellegatta al margine della presentazione di Milano Vende Moda. Crisi che si sta allargando a tutti i settori. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, parleremo proprio di un settore specifico. Stiamo ormai anche noi nel nostro piccolo monitorando i settori economici del paese, dal tessile al calzaturiero alla meccanica. Oggi la volta dell'information technology, che significa comunque decine di migliaia di posti di lavoro solo in Italia, di dipendenti o liberi professionisti che lavorano nel software, nell'hardware, in tutto quello che va sotto il nome di information technology. Ne parliamo tra un minuto. 349-238-6666. L'ultimo aggiornamento da Wall Street vede un miglioramento ulteriore del Dow Jones, che adesso è quasi in parità, almeno una buona notizia verso la fine della trasmissione. Allora, per parlare del settore dell'information technology e di uno dei gruppi leader, mi riferisco a Microsoft. Saluto e ringrazio per essere ospite nei nostri studi il presidente di Microsoft Italia, Umberto Paolucci, che è anche vicepresidente di Microsoft Corporation. Dottor Paolucci, buonasera. Buonasera. Dunque, nessun settore industriale in questo momento a livello globale è immune dalla crisi. Non lo è l'information technology. Nel caso di Microsoft, voi avete annunciato a inizio gennaio, anzi a fine gennaio per essere più precisi, 5.000 esuberi a livello mondiale, 1.400 già a gennaio, gli altri nel corso del 2009, nei primi mesi del 2010. Nel frattempo, anche a livello più complessivo, abbiamo visto difficoltà su Intel, che ha avuto un paio di warning, ossia di avvisi di utili inferiori alle attese, la difficoltà enorme di Nortel, che ha tagliato 3.000 e passa posti di lavoro, 3.200, e ha cancellato i bonus e tutti gli incentivi. Nortel è un colosso canadese nel settore del hardware, software e servizi per le telecomunicazioni e le imprese. Questo per dire che in realtà, di fronte a questo scenario, vorrei capire quanto la crisi pesi su Microsoft, ma anche quanto la crisi pesi in generale sul settore. Sì, in effetti abbiamo per la prima volta annunciato una riduzione di personale di 5.000 su 95.000 in 18 mesi. Abbiamo anche detto però che in questo arco di tempo ne assumeremo almeno 3.000, quindi il saldo netto sarà di 2.000. Il problema c'è, va messo in tutta la sua luce possibile. Le implicazioni sono quelle più importanti di tutti, che riguardano i vari paesi, che riguardano il modo di lavorare di Microsoft. Microsoft è una realtà grande, come ho detto, ma molto più grande è la realtà del suo ecosistema. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo 25.000 aziende che sono nostre partner, che lavorano con noi. Queste significano 255.000 persone nel nostro paese. E quindi la responsabilità di far sì che questo grande sistema di valore aggiunto rimanga il più possibile integro, e anzi addirittura sia visto come una forza di cambiamento, come una forza di superamento delle difficoltà, in contrasto con il rischio di poter essere visto come un costo, quindi come un costo da tagliare. Ecco, questa prospettiva di far vedere la forza del cambiamento che l'informatica ha è quella che noi dobbiamo perseguire in primis, e quindi dobbiamo spiegare a tutti quanti, alle parti sociali, alle istituzioni, agli utilizzatori, ai potenziali clienti, che lì c'è la soluzione. E a questo arriveremo tra un attimo, perché è chiaro che in un momento di crisi purtroppo si va a tagliare, delle volte anche con l'accetta, con la mannaia, più che con il bisturi. E il rischio di tagliare anche elementi che invece sono competitivi, che possono migliorare l'efficienza e la produttività, è molto forte, ma sappiamo che alla crisi purtroppo delle volte si reagisce anche e soprattutto di pancia più che di testa. Però vorrei chiudere sul settore dell'information technology. Quindi voi avete in realtà una difficoltà, visti i numeri, 95.000 dipendenti e 5.000 poi al netto dell'assunzione, 2.000 esuberi, ve la passate ancora bene rispetto ad altri settori. Vorrei capire se però questa definizione possa essere a suo avviso allargata a tutta l'information technology, perché qualche scricchiolio lo vediamo anche lì a livello mondiale. Effettivamente alcuni settori soffrono più di altri. L'information technology è fatta di hardware, è fatta di software, è fatta di servizi. L'hardware in alcuni paesi sta avendo un impatto piuttosto negativo dalla crisi, in particolare sui mercati consumer, in particolare nei paesi che hanno anche difficoltà di ordine generale, magari di origine valutaria o finanziaria, paesi che non sono legati all'euro. Abbiamo delle situazioni certamente molto più serie di quelle che per fortuna stiamo vivendo in Italia, quindi globalmente il numero di processori Intel in primis che lei ha citato è in calo. Noi stessi abbiamo appena dato una guidance, una visione su quello che sarà il risultato del semestre nel quale ci troviamo, che si concluderà alla fine di giugno. Ed è una visione purtroppo in calo, questo non era mai successo. Abbiamo però detto nello stesso tempo che non taglieremo gli investimenti nelle cose che contano di più, quindi nella ricerca e nello sviluppo. Abbiamo confermato una cifra superiore agli 8 miliardi di dollari l'anno. E quindi questo è per noi una maniera di riaffermare la fiducia in quello che si può fare con quello che il software può dare. Riaffermare la fiducia nei mercati che torneranno a dare soddisfazione. Quindi nel frattempo credo che l'obiettivo che tutti quanti debbano avere, i mercati così che magari sono più modesti, sono ridotti rispetto al passato, è l'obiettivo di market share, di mantenere quota, di mantenere la presenza, la soddisfazione dei clienti. Sì, la difficoltà la vediamo anche noi in borsa, se un titolo come STMicroelectronics, appunto concorrente di Intel, è passato da 8 euro per azione un anno fa circa, anzi anche qualcosa di più, anche 9, agli attuali 3,5 euro, mai sopra i 4 euro. Quindi insomma anche in questo caso il valore di borsa si è più che dimezzato. Veniamo a quello che chiedete. Ora, è difficile quando la coperta è così corta che tutti i settori possono essere aiutati. I vari governi, parlo a questo punto a livello europeo ma anche americano, si sono mossi in primo luogo sulle banche, perché lì il bubbone è scoppiato, lì diciamo è stato il germinaio di tutta la crisi. Si sono mossi poi sul settore dell'automotive, quindi le quattro ruote, perché anche lì la situazione era critica, rischiava di non reggere l'anno nuovo in America ma anche in Europa. E adesso ci sono iniziative anche per altri settori, penso al caso italiano, gli elettrodomestici, ma non solo, il mobilio arredo. Ora, voi chiedete incentivi analoghi, e a quel punto però, secondo me, non so quanto successo possa avere la vostra iniziativa, chiedete sgravi fiscali e soprattutto perché? La situazione del nostro settore non è che possa essere più semplice o meno seria, è semplicemente meno visibile. Non ci sono grandi masse che possono perdere il lavoro contemporaneamente, non parliamo di 60.000 persone in un colpo solo, parliamo di migliaia di volte moltiplicato 10 persone, perché il numero medio di lavoratori per un'azienda nel nostro settore è proprio quello. Prima facevo l'esempio dei nostri partner, 25.000 aziende, 255.000 dipendenti. Cioè l'indotto di Microsoft in Italia. Certo, il mondo dell'information technology in Italia è fatto di circa 400.000 persone e questi sono molto frazionati, quindi direi che purtroppo non fa notizia, direi anche che purtroppo sono aziende in grande parte senza ammortizzatori di nessun genere. Non c'è cassa integrazione. Purtroppo no. Questi vanno assolutamente aiutati. È realistico pretendere, aspettarsi nel giro di breve degli incentivi? Credo che non sia molto facile da fare questo. Quindi credo che sia invece più importante evidenziare tutti insieme, avere dei programmi di lunga gittata, come per esempio il piano di government del ministro Brunetta, che mi auguro sia un elemento portante e trainante. Evidenziare tutti insieme quello che si può fare, fare in modo che l'imprenditore capisca, così come lo deve capire la pubblica amministrazione, che quelli sono gli ultimi costi da tagliare. Poi, se è possibile, magari creare una accelerazione nell'utilizzo dei fondi che esistono, perché spesso il problema è quello, cioè i fondi ci sono ma non vengono spesi. Se è possibile creare delle facilitazioni operative per attingere le risorse, e questo noi lo facciamo con un servizio che è attivo da un paio d'anni, per far vedere alle imprese quali incentivi possono essere ottenuti sia su base italiana che su base europea. Ecco, mi scusi Presidente Paolucci, per andare nel concreto, se ho ben capito voi dite attenzione, noi siamo meno visibili perché abbiamo un indotto immenso fatto di parcellizzazione quanto ad aziende, per cui magari saltano due posti per ogni azienda, sommati possono essere anche 20.000, 30.000, ma non si vedono in blocco come il mondo dell'auto. E attenzione perché l'information technology, quindi la informatizzazione dei processi, è un elemento trasversale, riguarda l'industria alimentare come quella turistica, come quella siderurgica, come quella finanziaria, e permette maggiore efficienza, maggiore risparmio di costi, per cui certo, in un momento di crisi non tagliare quello che ti permette di risparmiare, se posso certo forzare certo il concetto, o di lavorare in maniera più produttiva. Bene, che cosa chiedete poi come aiuto? Cioè chiedete incentivi fiscali, detassazione, defiscalizzazione degli investimenti in information technology? chiediamo che gli investimenti in information technology siano visti come investimenti virtuosi, chiediamo che possano essere in parte detassati, chiediamo che a questo settore possano essere applicati gli incentivi che già esistono per altri tipi di beni. È stato fatto qualcosa nell'ultimo provvedimento, ma molto marginale, insieme all'auto e agli elettrodomestici c'erano anche i PC. Però quello che soprattutto noi chiediamo è un messaggio corale che deve essere dato, perché non dobbiamo dimenticarci che stiamo partendo da una situazione già di difficoltà. La quantità di informatica per addetto in una impresa italiana è mediamente la metà di quella che è nei paesi vicini a noi, quindi noi chiediamo che esistano delle forme per arrestare questa situazione di difficoltà, per non farla peggiorare in questi momenti di crisi, e questo deve essere fatto principalmente con dei grandi progetti, con i progetti di infrastrutture che poi possono aprire spazi a applicazioni, a soluzioni, a servizi e utilizzo di apparecchiature, di hardware. Chiediamo che ci sia una mobilitazione, un tema visibile forte, così come per esempio c'è nel programma con il quale il Presidente Obama è stato eletto, cioè lì ci sono dei capitoli molto importanti che riguardano l'innovazione grazie alla tecnologia dell'informazione. E quindi insomma, incentivi fiscali ma anche una maggiore sensibilizzazione, se ho capito, complessivamente per l'intero settore. Un'ultima battuta, visto che lei è anche vicepresidente di Microsoft Corporation, quindi ha una visione italiana per carità, ma anche globale, la sua sensazione è che ne usciremo quando? È difficile fare una stima. La nostra valutazione, sulla quale basiamo i nostri stessi piani, è una valutazione che ci dice che i tempi non saranno brevi. Se andiamo a guardare dove è tornato il valore di Wall Street in generale, è tornato al 97, no? Quindi siamo andati indietro di 12 anni. Ci vorranno 12 anni per tornare dove eravamo prima? Mi auguro assolutamente di no, però non è una faccenda di pochi mesi. Credo però che ci siano degli elementi abbastanza a portata di mano per i quali ciascun paese possa trovare una sua strada, quelli della comunicazione, quelli della cercare di rimettere a posto gli anelli della fiducia, in modo che chi è in grado di investire in questo momento lo faccia per davvero, certamente dosando le forze, non sbilanciandosi, non affidandosi se non per quello che è necessario al credito, che è più difficile da ottenere. Ma la crisi non può essere, Presidente Paolucci, anche un elemento, per carità, nessuno la crisi le vuole né ci sta bene, ma un elemento, un'opportunità oltre che un elemento di drammaticità. Forse era un modello a questo punto insostenibile, un modello di consumo sul credito e quindi sul debito, di crescita solo sul debito, di rateizzazione di quelli che sono i consumi personali. Forse si potrebbe anche immaginare un mondo non solo più ecologico, mi riferisco all'industria dell'auto, ma anche più sobrio. Assolutamente sì, cioè è stato detto da molti, anche da parte mia diverse volte, che la crisi è una grande opportunità, una grande occasione che non va buttata via per fare le cose che non abbiamo mai avuto la forza, il coraggio o la motivazione per fare. Significa prendere il buono che c'è nella crisi, significa non farsi spaventare dalla crisi, significa certo tenerne conto nei propri scenari, però poi alla fine concentrarsi sulle cose che possiamo controllare, cioè non perdersi nei meandri dello scenario geopolitico planetario, ma mettersi nello scenario di dover guidare un'azienda con delle scelte, con delle scommesse, con dei ritorni sugli investimenti. Forse anche con dei bonus più bassi per i manager. Assolutamente sì, cioè, ci sono state delle cose scandalose, cioè senza proporzione, insomma, fra il valore generato e il ritorno per alcune persone. Questo è chiaro che non deve più accadere, non è accaduto per la verità solamente nel mondo della finanza. Devo dire che la mia azienda è sempre stata molto sobria in questa direzione. Quando ci sono stati dei grandi arricchimenti, come per esempio nel caso di Bill Gates, avete visto come sono stati gestiti, quindi lo cito, Bill, il nostro chairman, ma ormai spende la maggior parte del suo tempo su altre attività. Con la fondazione, con la fondazione, moglie. Certamente. Beh, speriamo che appunto vi sia veramente anche un'opportunità da questa crisi. Vedremo poi appunto che cosa succederà come interventi concreti al vostro settore. D'accordo con lei che il vostro è un settore, quello dell'information technology, che è trasversale a tutti i settori, quindi se ben utilizzato può migliorare l'efficienza, la produttività, far risparmiare in senso lato imprese in una situazione già di crisi e di difficoltà. Grazie quindi al Presidente di Microsoft Italia e Vicepresidente di Microsoft Corporation, Umberto Paolucci. Grazie a lei, grazie. E adesso siamo veramente in conclusione del programma. L'ultimo aggiornamento da Wall Street: meno 0,3% sul Dow Jones, meno 0,7% sullo Standard & Poor's. Non abbiamo dato il petrolio, ci segnalate ogni tanto ce lo dimentichiamo, per carità. Petrolio in forte calo, vista la situazione, a $42 al barile. Confermo, Citigroup sta perdendo ancora più del 30% in borsa in America, dopo che il tesoro è passato al 38% del capitale della banca, il tesoro americano. Chiaramente, e quindi di fatto è stata nazionalizzata. Non mi resta che ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, augurare a tutti voi un buon fine settimana. Noi a questo punto ci risentiamo lunedì, vedremo come riapriranno le borse dalle 17 in poi.